Milan, de verdad, ya no podemos más de la abuelita que dice que lees el periódico mejor que nadie en el mundo. Basta ya, por favor, cambia la sigla. 24 mattino di Alessandro Milan. E va bene, e allora grazie a questa ascoltatrice ora abbiamo anche la sigla in spagnolo. Evviva! Mandate le vostre sigle al 349-238-6666 e noi vi ospiteremo per una giornata o forse anche di più. Allora, siamo pronti per la rassegna stampa di 24 mattino. Come è presumibile, come era presumibile, tutte le aperture dei quotidiani, la maggior parte sono dedicate alle Olimpiadi e al no di Roma alle Olimpiadi, alla candidatura, ma andiamo a sfogliarli questi giornali, ci sono tante belle notizie. Oh, non sanno di che parlare i giornali, Allora, più che belle, non lo so, interessanti, ecco, poi belle giudicherete voi. Giovedì 22 settembre, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata all'industria 4.0, il piano da 13 miliardi con Renzi e il ministro Calenda che hanno presentato gli incentivi fiscali per attivare 10 miliardi di investimenti aggiuntivi, questo a Milano ieri. E poi dicevo le Olimpiadi, il no di Roma per il Corriere della Sera, Raggi dice no all'Olimpiade. Repubblica, no alle Olimpiadi del mattone, Raggi cancella i giochi di Roma. Per il Messaggero, giornale che si è da sempre schierato a favore delle Olimpiadi, no ai giochi, schiaffo a Roma. Il Giornale, figuraccia olimpica. Per il Giorno, giochi, schiaffo della Raggi. E ancora La Stampa, Raggi, CONI, la guerra dei giochi. Mentre l'Unità, no ai giochi, la rivolta dello sport. Beh, il Manifesto, come al solito, ha un titolo geniale a suo modo. CONI gelato. Questo è il titolo del Manifesto. Roma città chiusa, invece, per Avvenire. Mentre un'apertura diversa per Libero. Qui crolla tutto e ancora discutono di legge elettorale. Anche il Fatto Quotidiano ha un'apertura diversa. I morti sul lavoro, prescrizione sicura, garantisce il PD. E anche La Verità ha un'apertura invece molto popolare ed è questa. Messo sotto accusa il medicinale che tutti gli italiani hanno in casa. Si tratta del paracetamolo contenuto soprattutto nella tachipirina. Diciamo comunque il principio attivo paracetamolo, visto che c'è in altri 137 farmaci e secondo una ricerca dell'Università di Bristol, assunto dalle donne durante la gravidanza provocherebbe un aumentato rischio di disturbi comportamentali nella prole. Questo è il titolo di prima pagina. Però voglio partire dal mitico, mitologico, diciamo franato sotto una valanga di polemiche, Fertility Day, che mi risulta essere oggi. È oggi giusto il Fertility Day, caro Peter Bescapè, prendi nota, oggi è il Fertility Day. E però questo Fertility Day, cioè una campagna di informazione che il Ministero della Salute ha lanciato per dire guardate che siamo un paese dove facciamo pochi figli, in cui facciamo pochi figli, e quindi ci vorrebbero delle educazioni alla natalità, eccetera, è naufragato sotto un mare di polemiche. Ricordate prima la polemica qualche giorno fa con tutta la campagna ritirata per alcuni opuscoli sbagliati. Ora hanno fatto un altro opuscolo e subito si beccano l'accusa di razzismo, perché in questo Fertility Day e in questo opuscolo fatto dal ministero si vede una foto dove sono ritratti un gruppo di giovani bianchi, sorridenti, illuminati dal sole, che personificano le buone abitudini, sono tutti bianchi, e sotto le cattive abitudini, i cattivi compagni da abbandonare, e sono neri e fumano canne. I bianchi buoni, i neri fumano canne, magari hanno anche il ritmo del sangue, non lo so. Ecco, questo è l'opuscolo che ha fatto infuriare per primo Enrico Mentana, direttore del TG della 7, che infatti viene anche intervistato oggi, una breve intervista sul Corriere della Sera, e dice l'inciampo è grave, impressiona che chi è preposto a controllare queste cose si sia lasciato sfuggire simili bestialità. Enrico Mentana, messaggi razzisti, ritirato l'opuscolo sul Fertility Day e racconta Repubblica, pagina 9, dopo questo opuscolo razzista, la Lorenzini, il ministro Lorenzini ha ritirato l'opuscolo e fatto saltare la dirigente responsabile della comunicazione. Si tratta di Daniela Rodorigo, che si era occupata delle cartoline di fine agosto e per la nuova campagna di comunicazione esterna si era occupata anche dell'opuscolo, anche se questa dirigente, sentita da Repubblica, Michele Bocci la raggiunge, all'inizio dice non parlo, poi chiama lei e dice beh, in realtà voglio dire qualcosa, la foto dell'opuscolo è cambiata. Guardi, risponde la dirigente del ministero, a tutte queste domande ora non rispondo, però dico questo, tratterò la questione nelle sedi opportune, vedremo cosa succederà. Sta di fatto che un tema anche serio, per nulla banale, quello della denatalità, è finito, è naufragato in un mare di polemiche. E infatti Raffaele Zanotti sulla Stampa intervista a pagina 11 l'esperto Alessandro Rosina, che insegna demografia alla Cattolica di Milano, e lui dice: la campagna è stata disastrosa, ma il declino demografico sta uccidendo il paese. Capisco le polemiche, il messaggio è completamente sbagliato, ma il problema è terribilmente serio. Non è vero che le donne italiane non vogliono fare figli. Per fortuna ancora oggi desiderano averne almeno due. Il problema è che manca tutto il contorno. Non puoi dire a un giovane «lanciati» e poi non mettergli una rete sotto. Si sfracella ed è un esempio negativo per i suoi coetanei. Servono politiche in favore dell'occupazione, della casa, degli asili. Purtroppo da noi si pensa di risolvere tutto con qualche pezza temporanea come il bonus bebè. Non basta, siamo sotto la soglia di sostituzione da troppo tempo. E quando il tasso di fecondità scende sotto questo numero, si riduce la forza lavoro e quella che si affaccia sul mercato è meno preparata, c'è minore innovazione, minore competitività, gli anziani sono più numerosi dei giovani, aumentano le spese sanitarie a cui bisogna far fronte, il welfare scricchiola perché il sistema pensionistico deve far fronte a più pensioni pagate. E la politica risponde al proprio elettorato e se questo è formato soprattutto da anziani si guarda alle loro esigenze. Insomma, secondo il professor Rosina, una visione strategica disastrosa e il tema c'è. A proposito di situazione disastrosa, vi segnalo questa ricerca, saltando sul tema della scuola, che è stata pubblicata da Avvenire. È una ricerca di cittadinanza attiva, riguarda le scuole dove vanno i nostri figli, dove state portando i vostri figli oggi, in questo momento, in macchina. La situazione dell'edilizia scolastica, secondo un rapporto di cittadinanza attiva, è questo. Sono stati controllati 150 edifici scolastici in tutta Italia. Più di una scuola su 10 ha lesioni strutturali. In un caso su tre gli enti locali non effettuano gli interventi strutturali richiesti. Una scuola su tre è costruita in zona sismica e questo non è di per sé un dato, come dire, negativo che dobbiamo fare. L'Italia è a zona sismica, ma il dato impressionante è questo. Solo l'8% delle scuole in elevata sismicità sono state progettate secondo le normative antisismiche. Solo l'8%, questo dice questo rapporto di cittadinanza attiva. No, perché poi lo so, adesso dirò una cosa molto, molto dura, visto che riguarda la salute e la vita dei nostri bambini. Però quando e se succederà, e non dico cosa, ma avete intuito, non frignate poi. Poi dopo è inutile frignare dopo. Le cose si sanno e si dovrebbero risolvere prima. In un paese normale e serio. Allora, c'è una polemica per gli ascolti in Rai, soprattutto nella trasmissione Politics di Semprini, ma insomma questa Rai pare che non decolli. E c'è un fustigatore della Rai che risponde al nome del commissario PD in vigilanza Michele Anzaldi, che ogni tanto si lancia in temerate battute e interviste al vetriolo nei confronti della dirigenza Rai che peraltro è stata scelta da questo governo, quindi dal governo PD, eppure Anzaldi è uno che quando parla non si tira proprio indietro. Sentite oggi cosa dice al giornale Michele Anzaldi, intervistato da Paolo Bracalini. Dell'orto, cioè campo dall'orto, vale a dire il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, è come Schettino, il comandante. Va commissariato. Dico che anche Schettino sulla carta era il miglior comandante sulla piazza, con un'esperienza decennale sulle navi più grandi del mondo. Poi è andato lì e ha fatto il disastro. Il paragone è incredibile. Non è una mia impressione, sono i fatti, continua Anzaldi. Non hanno sbagliato solo con Semprini, hanno chiuso tutti i programmi di informazione, hanno ridotto le edizioni dei TG. La RAI dopo 50 anni ha perso il primato dell'informazione politica. Ma voi non parlate coi vertici RAI. Io ci provo quotidianamente, ma sono di un'arroganza mai vista. Non ascoltano nessuno, arroganti e mal consigliati. Gli abbiamo chiesto di limitare le assunzioni esterne, di fare il job posting, di abbassarsi gli stipendi faraonici. E loro se ne fregano. E quindi? Beh, ora può succedere di tutto, dice Anzaldi. Ci sono molti fronti aperti, dall'anticorruzione alla Corte dei Conti, a cui ho scritto una lettera dettagliata, fino al Tribunale del Lavoro, che parla di comportamento antisindacale dell'azienda. Se Dall'Orto non risolve queste situazioni, può essere commissariato, poi votiamo un nuovo CDA e quindi un altro direttore generale e un altro presidente della RAI. E i superstipendi non se li sono ancora abbassati, aspettano l'ultimo momento per guadagnare il più possibile. Ma a ottobre diventa un obbligo e saranno costretti. Potevano farlo prima, no? Avremmo risparmiato 2 milioni, invece niente, al solito. Questa l'intervista, il sunto dell'intervista di Anzaldi, che dice Dall'Orto è come Schettino. Va bene, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata. È quello da Mani sul Volante, riguarda una storia raccontata dal Corriere della Sera da Alfio Sciacca all'interno della Polizia di Stato, pagina 29. È una vicenda davvero che qualifica alcuni di noi uomini. Nello specifico questo signore, questo sindacalista, collega del vicequestore Marilina Giaquinta. Marilina Giaquinta, vicequestore a Catania, ha commesso, secondo questo collega, un gravissimo errore. Sulla propria pagina di Facebook, sulla propria pagina, ha pubblicato una foto di se stessa con le gambe scoperte. Gambe scoperte, cioè come se avesse una sorta di minigonna, una gonna un po' corta. Il collega sindacalista, per questa foto pubblicata, ripeto, sul proprio profilo personale del vicequestore, l'ha denunciata al questore per condotta disdicevole. Cioè, avete capito? Siamo appena oltre il Medioevo. La vicequestore sotto attacco per le gambe online, la lettera sindacale, lei giustamente risponde, sono accuse medievali, la polizia è avanti rispetto a questi comportamenti. E comunque commenta anche che dobbiamo arrivare al burka. Eccola qui sul Corriere, la vicequestore sotto attacco per una foto con le gambe scoperte. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Quel bell'uomo di Alessandro Milan, il Brad Pitt dell'informazione. Vabbè, questo era abbastanza scontato. Meglio il Brad Pitt che l'Angelina Jolie dell'informazione, caro ascoltatore. Comunque non è vera, non è vera né l'una né l'altra. Allora, le Olimpiadi e il no di Virginia Raggi, il no in una conferenza stampa dopo che è andato deserto di fatto l'incontro che doveva esserci tra il capo del CONI, la delegazione del CONI, a capo c'era Giovanni Malagò, e lo stesso sindaco. Perché è andato deserto? Perché nel frattempo il sindaco Raggi è stata immortalata con una foto, era a mangiare la matriciana alla trattoria Cucina Romana Dadino. Cioè, invece di attendere Malagò, era a pranzo. Poi si è presentata in conferenza stampa, ha detto ho avuto un contrattempo, ma in realtà era a pranzo. E infatti molti fanno notare che questa potrebbe essere stata una vera e propria sceneggiata, quasi un coup de théâtre per creare proprio il caso anche dal punto di vista mediatico, no? Era un appuntamento importante, il sindaco non si fa trovare. E infatti Ernesto Menicucci racconta a pagina 3 del Corriere della Sera: lo strappo col CONI si consuma dopo pranzo con la vana attesa 35 minuti di Giovanni Malagò. Con Malagò che arriva alle 14.23 in Campidoglio, sale a Palazzo Senatorio. La sindaca Virginia Raggi è sotto il gazebo di una trattoria in Via dei Mille, zona stazione Termini, e a un certo punto allora Malagò si siede con la sua delegazione, parla con il portavoce di Virginia Raggi, un caffè, un po' d'acqua. Beh, ma arriva il sindaco? Sì, sì, sì, arriva il sindaco. Ma facciamo la diretta streaming? Chiedono gli ospiti olimpici. No, no, è un incontro privato. Sì, ma arriva, sì, sì, sta arrivando, è in macchina. Alla fine, dopo 35 minuti di attesa, Giovanni Malagò dice: sentite, noi ce ne andiamo, e parla di sgarbo istituzionale. Racconta Malagò: demagogia senza rispetto. Questo è il titolo di pagina 3 del Messaggero. E Virginia Raggi fa questa conferenza stampa poco dopo e dice no alle Olimpiadi del mattone. Tra l'altro fanno notare tutti i giornali che l'accelerazione in questo senso proviene proprio da Beppe Grillo, che ha chiamato il giorno prima il sindaco di Roma dicendo: niente scherzi, questa storia va chiusa subito. Ecco, ma la domanda intanto è: ma è chiusa? E come verrà chiusa? Allora, giornali come Repubblica e Il Messaggero raccontano che in realtà c'è una sorta di piano B del governo. Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 3, dice questo. Oggi ne parleranno proprio Matteo Renzi e Luca Lotti insieme al presidente del CONI Giovanni Malagò. Cioè l'obiettivo è andare avanti e cercare di convincere il Comitato Olimpico della candidatura di Roma anche senza il consenso del Comune. Per la verità c'è chi frena, come Graziano Del Rio, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che dice: è difficile fare un'Olimpiade contro il parere dell'amministrazione comunale coinvolta. Però questo è una strada forse stretta, tortuosa, ma che il governo pensa di percorrere. E poi c'è il rischio dei soldi che qualcuno potrebbe chiedere al Comune di Roma. Perché? Ne abbiamo già parlato ieri. Ne parleremo anche oggi dalle 8.15. E Malagò, fa sapere La Stampa, a pagina 3, ha lasciato intendere con una frase: chi firmerà la delibera per tornare indietro commetterà un delitto e dovrà assumersi la responsabilità di quello che firma. La sostanza è questa: il CONI ha già speso circa 15 milioni di euro, soprattutto in promozione, per la candidatura, soldi pubblici, e quindi soldi pubblici, perché c'era stata una delibera del Comune di Roma all'epoca Marino e quindi stanziamento di fondi pubblici per la candidatura. Ecco allora che di fronte a questo dietrofront si fa capire che la Corte dei Conti potrebbe drizzare le antenne su questi 15 milioni spesi e chiedere al Comune di Roma la restituzione di questi 15 milioni. Ci manca anche solo questa, insomma, che Roma ora rischi di dover pagare 15 milioni in qualche modo di penale. Insomma, la partita è complessa, la partita è difficile. Parla sul Manifesto Paolo Berdini, è l'assessore all'urbanistica di Roma. Perché è interessante? Perché Berdini, che non è del 5 Stelle ma è un esterno chiamato a fare l'assessore, aveva dimostrato qualche apertura nei confronti delle Olimpiadi, l'unico all'interno della giunta. Ebbene, Eleonora Martini lo intervista per il Manifesto, ma oggi Berdini, anche lui, dice: il sindaco Raggi ha perfettamente ragione a dire no alle Olimpiadi perché il progetto approvato durante il mandato Marino era devastante sotto il profilo urbanistico e dunque avrebbe alimentato ulteriormente la grave crisi del sistema urbano moderno. Era prevista la costruzione delle case degli atleti a Tor Vergata su aree espropriate dallo Stato per costruire la più grande università d'Italia. Rinunciavamo dunque a funzioni d'eccellenza che sono il futuro delle prossime generazioni per costruire volgari abitazioni. E chi ci guadagnava? Chi ha la concessionaria. Insomma, anche Berdini mette una pietra tombale sulle Olimpiadi. E poi lancia la sfida: ora un patto per la capitale, finanziate il nostro progetto, chiede a Matteo Renzi, di sottoscrivere con Roma ciò che è stato fatto con Milano, cioè un patto per Milano di 1,5 miliardi di euro. Roma si candida al patto per la capitale da sottoscrivere con Palazzo Chigi, così l'assessore all'urbanistica Berdini, assessore a Roma. Vabbè, delle Olimpiadi parleremo anche più avanti, Veniamo invece ai conti pubblici, all'economia. Pier Carlo Padoa, ministro dell'economia, oggi risponde con una lunga lettera al Corriere della Sera a Paolo Mieli, che aveva accusato, come altri, il mancato intervento nella spending review da parte del governo, e cioè non riducete la spesa pubblica. E allora Pier Carlo Padoa prende carta e penna. Ecco la verità sui tagli alla spesa e misure per la crescita. Caro direttore, l'editoriale di Paolo Mieli sembra suggerire al lettore che l'Italia ha accantonato l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica. E qui Padoa snocciola cifre. In Italia la spesa pubblica nominale al netto degli interessi è cresciuta durante la crisi meno che in altri paesi, è cresciuta dell'1,4%, mentre nel Regno Unito, considerato campione di austerità, è cresciuta del 5,7%. Nell'Unione Europea ha avuto una crescita media del 9%. In termini reali la spesa è diminuita in Italia, aumentata nell'Unione Europea. E numerosi indicatori concorrono a dimostrare che lo sforzo di consolidamento delle finanze pubbliche sostenuto dai cittadini è superiore a quello realizzato da chiunque altro nell'Eurozona. Insomma, scrive Padoan, la spending review ha consentito di riallocare risorse da sprechi a politiche strutturali. Col taglio lordo di spese inefficienti per 25 miliardi ci ha consentito di ridurre le tasse, a cominciare dal costo del lavoro. E via via questa lunga lettera in cui difende l'intervento del governo sui tagli alla spesa pubblica. Come abbiamo detto varie volte, Roberto Perotti, che è stato vice commissario alla spesa pubblica, la pensa diversamente, dicendo non si è fatto nulla. Si sa, questo è il paese in cui anche in economia, soprattutto in economia, uno più uno non fa due. Non è detto che faccia due. Mentre sento già così il vibrante Mauro Meazza, ormai veleggiare verso uno scudetto certo con la sua Inter. Caro Mauro, buongiorno. Buongiorno. Adesso mi sembra un pronostico un po' azzardato in questo momento. Dici? Allora, intanto vorrei, vedo veleggiare, come dire, verso l'accordo, la cessione del Milan. Oggi ne scriviamo sul Sole 24 Ore. Nelle pagine di finanza addirittura si prospetta nel tuo futuro una quotazione in borsa. Ah. Però in Cina. A quale quindi... borsa? Infatti stavo dicendo. Guarda, leggi le pagine di finanza. E quali delle due borse? Che sempre tu devi leggere come avidamente. Sì. Bravissimo. Ecco, leggi le pagine di finanza, perché lì appunto si riferisce di questo. Questa lunga ricerca del closing, insomma, della firma per riuscire a completare la cessione. Ma naturalmente non c'è solo questo sul Sole 24 Ore. Sai cos'è il roaming? Il roaming, quella cosa che se vai all'estero in una sacra, cioè, insomma, soldi. Ti chiedono un po' più di soldi. Ecco. Col telefonino, esattamente. Oh, allora, dal 15 giugno 2017, c'hai l'agenda, segnatelo. Sì, eccolo qua. 15 giugno. Perché questo roaming appunto deve sparire, l'ha detto la Commissione, che ieri, come riferiamo nelle pagine Impresa e Territori, ha spiegato anche quali saranno le linee guida per superare il roaming, per evitare poi anche degli abusi. Ma segnato, questo 15 è giugno 2017. Bravissimo. Oh, l'articolo da meditazione di oggi invece che ti consiglio è sui workers buyout. Sarebbe a dire quelle aziende in crisi che vengono rilevate dai dipendenti e le rilanciano. Ah. Non so, tu quanto potresti mettere, ad esempio, due per eurini. La radio, che peraltro non è in crisi, ma insomma, vabbè, due vabbè. Eurini va bene. Io 2 euro li metto lì. Vabbè, come al solito sei sempre una mano, diciamo, un braccino corto. Come qualcuno dice, rilancia? 2 euro e 1? 2 sì, euro e 2? Lasciamo stare. 2 euro e 3. Senti, vediamo se possiamo prendere l'iperammortamento. Sai cos'è l'iperammortamento? Tu me lo dirai tra poco. Non sai niente. Cosa devo fare con te? Allora, nella legge di bilancio, già legge di stabilità, già legge finanziaria, si pensa a un iperammortamento per rilanciare, cioè una sorta di maxi sconto fiscale che arriverebbe al 250%. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi, e soprattutto, visto che siamo in tema di fisco, qui Radio Fisco, l'assegnazione agevolata, forse non la proroghiamo, ma la riapriamo nel 2017. Leggi norme e tributi attentamente e religiosamente, soprattutto, che lì c'è spiegato tutto. Molte altre cose ti vorrei dire. Tra l'altro, parte finalmente, dopo 15 anni di meditazione, questo sì, la pagella per i presidi. Parte, diciamo, cominciamo l'iter per renderla operativa. È riferito anche questo in norme e tributi, quindi tu religiosamente leggendo, religiosamente apprenderai. In ultimo, anche se avrei molte altre cose da dirti, tipo che abbiamo le pagine di Casa 24, essendo giovedì, ti voglio segnalare che hanno complessivamente richiesto alla Volkswagen 8,2 miliardi di risarcimenti. Non so se vuoi contribuire con i tuoi due eurini. Beh. Perché ti parlo di auto? Perché chissà, tutto ciò premesso è traffico! Sandro Milan, la vecchia signora dell'informazione. No, questo è troppo, eh? Questo è troppo. Attenzione, che sono uno delle querele facili, eh? Attenzione, caro ascoltatore. Va bene. Allora, parliamo di questo tema, che è il tema immigrazione, che viene sempre affrontato con una sorta di emergenza in Italia. Discutiamo, parliamo. I giornali, oggi il Corriere della Sera, e il Messaggero, l'Unità, raccontano che nel frattempo c'è stato un nuovo naufragio di migranti. Centinaia dispersi in mare, racconta Marta Serafini a pagina 15, è successo al largo dell'Egitto, oltre 40 morti, 31 corpi recuperati, di cui 10 donne, 20 uomini e un bambino. Ma è tutto ancora provvisorio, il bilancio del naufragio al largo delle coste egiziane, che secondo le autorità locali ieri ha coinvolto un barcone con a bordo 600 persone. Un'imbarcazione sovraccarica rovesciatasi al largo del villaggio di Burg Rashid, vicino a Rosetta, e a dare l'allarme un peschereggio che transitava nella zona. Questa, come dire, la fredda e brutale cronaca sulla rotta per l'Italia, un barcone con 600 migranti che si è ribaltato. Nel frattempo in Italia, per l'appunto, si litiga. La rivolta dei comuni ora. Quali comuni? Quelli che già accolgono i migranti all'interno dello SPRAR, questo acronimo che è il sistema di accoglienza dei rifugiati. E però questi comuni che accolgono già migranti, anche piccoli comuni, ora si ribellano. Ospitiamo i migranti, ma le prefetture non rispettano i patti. Perché? Cosa dicono? Tuona così Raffaele Scarinzi, sindaco di un piccolo paesino vitulano in provincia di Benevento, che in qualche modo ha dato il là a questa rivolta. Noi i migranti sul nostro territorio li accogliamo, ma siamo i beffati della doppia accoglienza. Perché sono i comuni che aderiscono, appunto, accolgono i migranti, ma poi senza essere interpellati si trovano paracadutate sul proprio territorio altre decine di migranti in strutture temporanee prefettizie. Insomma, un po' il vizietto sembra questo: va bene, li hai accolti, allora te ne mandiamo altri, e qui la situazione poi degenera. La rivolta dei comuni su Repubblica, a pagina 16, Vladimiro Polchi racconta questa situazione. Intanto voglio saltare sulla Verità, che apre, come ho detto prima, con questa ricerca dell'Università di Bristol, che certamente rischia di preoccupare milioni di italiani, perché sotto accusa è il farmaco più usato in Italia. Eccolo qua, lo studio inglese che lancia l'allarme per la tachipirina, diciamo, il principio attivo, il paracetamolo. Soprattutto se dato alle gestanti, causa deficit di attenzione e iperattività nei nascituri. Questo è quello che racconta La Verità, pagina 9. Da tempo il paracetamolo sotto osservazione per diversi problemi che può provocare in chi ne fa uso. L'allarme è stato riportato da Doctor 33, una newsletter riservata ai medici, che riferisce di questa ricerca compiuta all'Università di Bristol nel Regno Unito, e che ovviamente rischia di un po' di inquietare milioni di italiani che fanno uso di questo farmaco. Vi segnalo ancora che Repubblica continua nella brillante inchiesta e doverosa sulle barriere architettoniche nei confronti dei disabili nelle città italiane. ci si concentra su Roma, ma ovviamente non solo Roma. Oggi c'è questo scandalo, come racconta Fabio Tonacci. I fondi per i disabili c'erano. Nel 2008 lo Stato aveva stanziato 14 milioni di euro, sono ridotti a zero e spesso sono stati spesi nelle caserme, cioè sono stati spesi per scopi diversi rispetto ai quali erano stati adibiti. 14 milioni di euro e continuano le barriere architettoniche per i disabili. Siamo invece all'articolo più inutile che ho trovato sui giornali. Ragazzi, ieri giornata di calcio, la Juve è tornata in testa alla classifica, sai che novità. Oggi la stampa invece dedica mezza pagina allo slow football, il walking football che fanno gli ultra cinquantenni, cioè il calcio in cui è vietato correre. Si cammina, il walking football. Ragazzi, c'è una foto di questi che fanno il walking football, sono lenti anche in foto. Sono lenti anche in foto, il walking football. Ma chi se ne frega?